scendi per favore o vieni in ufficio. Beh. Hey you. Graziano, ci sei? Yeah. Aspetta un quarto d'ora, arrivo, Non te ne andare, mi mapperò. Buffetta, qua ci facendo c'è? Tutti morti sono, non c'è nessuno. Meno male che ci sei tu, dai. L'ho accesa adesso, dici, e c'è un sintetico che duro. Mi sto guardando il telefono, questo bullo. Tutti morti sono, Gio Maria, ma gliela batta al forno, chi dà, sono le pintrelli, quell'altra ancora lo stesso, andiamo bene, andiamo, ma però. Tutti manieri, chi dà manieri di bolpo, cose di bolpo, chi dà... Se coscette gonfiate, sempre pollo, E tu cosa hai mangiato? Oggi... risotto e ceci e patate e finocchietti, poi coniglio. Se ti sei dato la chiffata. Ehi, sono andata alla visita, ma dici che già sto andando bene. La batteria. È vero. Ehi, coscienza di pollo. Che non c'è? Ma ieri ero in campagna. Io. No, ma pure si era a fare. Qua, volevo scendere. Se faccio va bello. Sono andati a Lumac, mi sono attricciurato. No, io sono andato a mezzogiorno, alla vista ce l'avevo alla una, ma sono entrato un po' più. No, non sono andato dal diabetolo, dal diabetolo. Beh, ce li ho basse, da. Noi ce li abbiamo più alti. Gastroenterologo. Va bene. Da ghiso. Ma dici, caspita, sta avvenendo di novembre. Chi non vuole si rivede, ma dici. Ero lì via Zamparino per altre visite. E la mia dirigia, devo venire. Addirittura. Tutto il foglio che mi aveva fatto l'ultima volta, no? Tutte le volte che vado vuole il foglio. Con le analisi eccetera, no? Ma davvero ci duranno qua che non ci vedeva, però già ci siamo visti. Ho capito, sono andato a fare altre visite dall'oculista e quando ho fatto le codople lo incontravo lì, no? E gli dicevo, mi devo telefonare, così mi dice quando vede, sì, facciamo così, tu chiamavi, invece l'altro giorno l'ho chiamato, la settimana scorsa, mi ha detto da andare oggi. Ho capito, vabbè, interessante che è tutto a posto, dai. La cura mi ha lasciato sempre quella, ma io non te la cambio, ti lascio, se stai andando... bene, dagli analisi. Un ecodople, non un... telefono mi bisogna appuntare, ma... e al capo le banda. Il telefono quando vengo, e poi mi manda, Sì, vabbè, te la stare bene, dai. Ecco, fratello, ne prendi una... il pomeriggio è una delle bustine, me le ha date lui, a chi la gittia non posso più andare nessun luogo, a chi mi viene là, poi c'è un bagno, vado di più, e non sto uscendo a nessun posto. Il tubalo sotto carica quando lo uso molto si spegne. No, ho capito, quando lo usi molto? Quando è sotto carica, così come adesso, schiaccio solo per parlare. Quando rimane un po' si spegne. Perché scarica la batteria? Ma lo dovrebbe fare se è in carica. Grazie, lo devi lasciare caricare. E adesso una mano lo attacco là. Sono già risetti. No, dopo lo lascio caricare questo. E quell'altro non lo attacca qui, devo obbligare l'alimentatore, allungare un filo dell'antenna, ui. Campagna allora. E Luca è vecchio. Certo. No, io no. No, già matto ci ho fatto pure mia cognata a fare la ritrona, e cosa farà a fare? A fare nell'aria, passato sotto casa mi metto con noi. E lui arrostisce sempre. E allora, ma dici che devi fare peggio di iadina in agrodolce, è arrosto. È vero. E allora, inumiditi con vino bianco e vino rosso. Scusi davvero, voglio vedere. Grazie. Sai cosa è? Va bene, intanto. È buono, sì. Ah, già ci vuole ogni tanto. C'è qualcuno ragazzo che mi bar, mi vuole un caffè. Fattito. Aspetta, ci metto un minuto, non faccio la macchina. Caffè di Roggero. Tu non lo vuoi, no? No, io caffè. Chiama Gianni Maria per se ti risponde. Gianni Maria, ecco. Non rispondo. E beh, Luca. Qua sono. Non l'ha chiamata Gianni Maria. E non risponde. Sarà dormito, sarà. No, ieri l'ho acceso, era già tardi, a vedere se c'era qualcuno. E ho chiacchierato 5 minuti con Bacchisio, poi è entrato Marino, ma io ho chiuso. Era lì, l'ultima cudetti. Ha giocavito. Vuol dire che sta facendo roba. Eia. Non verrà nessuno, ma carina. Ieri, vabbè. No, io non avevo cane e non è un pezzo, quindi non mi ammetto che si rubo da rimane. Eravamo a 45. Già sono con Adi senza buio, guarda, l'ultima volta che l'ho sentito a Luigi, però stava chiudendo. Stavamo giocando con altri sei fuori. E anche io stavo parlando con gente di fuori ieri. La tua mamma mi ha acceso quello del tenere, del tanchi, ho chiacchierato un po' lì, con i siciliani. Ho capito, ieri eravamo lì. No, di mattina me l'ha acceso, stavo chiacchierando un po' col telefonino, con i siciliani. Ah! E nel telefono non ce l'hai più tu quel coso? Sì che ce l'ho. Ogni tanto ce l'ho messo a ascoltare oppure mi faccio una chiacchierata. No, io sono da un po' non l'ho attaccato, poco da poco l'ho attaccato. Ogni tanto lo metto a vedere se si sente qualcuno. Già sera sì. Sì, qualcuno già si sente ogni tanto, dai. Pure due ragazze c'erano, no. Grazie, ma sento un rumore di alternata da te. E come mai? È sotto carica, perché è sotto carica. Ah. Lo sta caricando. E infatti sento l'alternata. A chi è morto, è proprio a zero. E tu perché non lo carica? Cosa, non hai tempo per caricarlo. Ma l'altro giorno me l'ho lasciato acceso, e se deve essere batteria. Aspetta, mi metto a posto queste medicine nel bidoncino che me le ha portate adesso. E beh, a ciò che non sei andato. E te l'ho detto stamattina, sono andato, mi sono quattricciurato. Già ne hai fatto, giù. E diciamo il fondo del bidone della tinta, dai. E lo andavo sempre domani mattina, senza andare lontano, anche lì alla Bugibugi. Secondo me ne trovi un bel. Ma domani mattina va a accompagnare la mamma all'ospedale. Ah, presto. Adesso non mi ricordo a chi la ce l'ha. Secondo a che ora devi andare se vai dalle 7 sino alle 9, così, secondo me ne fai. Beh, certo. Ma vado mercoledì, dai. Mi sembra che da domani faccia cominciare il bel tempo, così, mi sembra. Ho capito. Da domani inizia a fare bel tempo. Mercoledì ha messo acqua, di nuovo. Mercoledì ha tornato a pulire. Andiamo a muovere. Ha messo pioggia, grazie, mercoledì. Cazzo, bello schifo, arrasta di tempo. Luca Fli, però. Vabbè, non ti rispondi, no. E cenami poco qua. Se sarai a preparare la graviglia. A me stai dicendo? A Luca Flippa sto dicendo, si starà preparando la graviglia. La mi sicura, Ma secondo me sono coscienti di rospo. Mi illumi. Avanti, Eiu. È aperto. Avanti, Eiu. Luca. Ciao Gio Maria. Mica non è Gio Maria, è Bobo. Che è il Bobo? È la stessa, Bobo. Avanti, Bobo. Andata all'altra sponda. Luca. Poco è durato. Chi su Bobo? Aspetta un attimo, grazie, 5 minuti. Arrivo. Vai, già è qua, già sto facendo altro intanto. C'è qualcuno che vuole abbaiare? Vai da bravo, bravo. C'è qualcuno che vuole abbaiare? Wow. Buonasera, grazie. Ciao Bacchi, io Luca e Bobo, che Bobo, se non è entrato, Luca sta entrando subito. Ah, ok, benissimo. Bobo, e chi è questo Bobo? È un nuovo radioamatorista. Sono laggiù, dito, avanti Bobo, e non entra. Così, ha paura. Ha paura, Grazia, se mangia un Bobo. Oh, Marino è diventato nonno, Grazia. Rosmarino torna nonno. Che è, pizza? Tutti i braghetti allegra oggi a casa, a te immaginerei, auguri allora, se lo senti prima di me. Entrerà stasera, no, non entrerà, io ho sentito al telefono a mezzogiorno, mi ha chiamato, e mi ha detto, dice, nonno, auguri, e paga B. E allora, ci dovrebbe passare da bene, dovrebbe fare il giro, no? Può essere casa per casa a fare il giro. Con la bottiglia a fare il giro ad invitare gli amici. E allora? Appena Nintendo gli avrò dico, basta, abbi, me lo bei. Ma calciamallo, Rosmarino. Ci sarà mangiando tutti i dolcetti, va. No, ha travagliato stasera, dunque si è andato a vedere il pupo, anzi la pupa, perché è femminuccia. Femminuccia, meglio così, meglio così. La carità, che le nascite hanno diminuito. Lascia aumentare la famiglia, meglio ce ne sia. Ciao Luca. Ciao Bacchi, buonasera. Buonasera Luca, viene sul scusciato, avanti. È tanto. Che se sta per piovere nuovamente, il tempo con le cose girate. E allora, Fede Gussi, Fede, care che è diventato un nonno. Sì, vai da me, chi c'è, grazie. Chi c'è che, oi oi, dove, avanti, buonasera, Tore, Marino, lo smarino. Ah, buonasera, signor Bacchi. Care che è diventato un nonno. Smarino. Oh, era ora. Tata. Andemmo, ve andemmo, bobo. Ciao, grazie, ciao Luca. Ciao, bella me. Ha girato agli uti. Cosa hai girato? Dico tu, sei andato oggi in giro con la baracqua. E a che macco gioco? Andave. Vero, signor Bacchi? Sì, ehia. T'ho visto io in bicicletta con l'ombrello e il cane con la mantellina. Fittino, andasse a cacciocca ieri. Andiamo, vai, andiamo, bobo. Tu non hai dimostrato a smanzare, non è, ma no. No, lei va io adesso quando lo stessi in campagna. In cammino è gioca a scendere, arca miseria, innanzi all'asfalto. Adesso dai. Ma te ne fai tutta la gira, però. A meno che non è tutto il fuso. No, mi sono occupato la macchina. Oh, hai visto, mi sembra che la gioca a vendeva. Ai funditi, lo saranno. Andiamo, beh, andiamo. Tiana, che domani andrà a ciocca. Dove montano devo andare a ciocca, la fa la bascera. No, io sono andato stamani alla visita. Luca deve andare a fare ciocca, come la mangiamo. Prima raccompagna la mamma a chi deve fare la visita. Però se la gente si conta che era di parati, conviene a fare un giretto, non che vicino. E ti fa la gioca. Vai tu. Andava e anda. Certo, che andiamo bene, andiamo. Beh, io stasera mi ha già costruito la padella. Gli ho messo la trafila nuova. E gli ho messo il manico. L'hai riparato? La padella si è adruncato, romanico si è adruncato, gli ho messo la trafila da sì, gli ho messo, e ha fatto, gli ho messo il manico in legno. Non è male, a me non scalda. No, si era adruncata, la filettatura si è adruncata, e quindi gli ho fatto tornare al buco e l'ho messo. Allora gliel'ho filettato e gliel'ho messo bene, come era prima. Meno, forse è più forte di prima, più solida la pirina. Mi sa che grazie, ce ne devi raccontare a paracqui andare in dettore. Racconta paracqui burro, eh. Ehi, gli amarraggi burro, pure io l'ho fatto il manico, i manici, tutti e due, il legno gliel'avevo fatto, il legno merante. E al frigorifero gli ho fatto le maniglie sempre in melante, in legno, due, allo sforzatoio e allo sforzatoio. Anche di plastica c'erano i fasciati e allora ho costruito in legno, non si fasciano mai, legno melante. Il legno duro, super duro. Ehi, dammi un paio di pezzi, ha detto, beh, avare il vostro le mani in legno. E così ha già fatto. E sono bellissime. Una volta che le luci di cascita, di lusso. Avanti, do. Ora le ha caggiuto dal ruletto, grazie. E le vasse si pensava che era su niente. Dopo. Oh, yeah. Dove sì, io sono poi dentro il telegiornale, e se non poi c'è anche paraula. E Luca si sarà soffriggendo la gioca, agli presemmo il peperoncino, che sa che ha corso la salì. Sì, ma se non lascia digiunare un poco, fasi male. Fasi male, grazie, mi sono lasciato la macchina 15 anni lì. Ma è dove l'intestino? Tipo lo struzzo, ingodi tutto, si immagina già tutto. C'è tutto allora, base, grazie. E allora, mica te la fanno, c'è chi macco. Sì, sei più buona, con più sostanza. Avanti, to. Ehi, catta. Bubu, che andiamo via, andiamo. Ehi, no, me la già conza. Ah, se te zanni andavi. Ehi, non sei mai così capi di zanni. Voi ti si rabbi fuori la... in eredità e morirà. Vabbè. E la già conza, a bui. Se vuol durare duria, se non vuol durare, no, peggio baetta. Ma chi? Non è così. Sì, mi fai tanto dura la durata, non vuoi se la rampa. Se c'è la vacone, se con i cucchini. Sì, no, che ne ho comprato un'altra, ma non è come te chi sa, però. Catta. Tu sei cucina più bella cucina, chi dai invece, va a fare dai. Oddio, è arrivato in cuoriata, chissà. Vediamo se c'è lo Svarino. Oh, Svarino! Sì, sarà la vigliura, sarà. Sì, senz'altro, ha travagliato stasera. Si sta riposando pure. Ah, sarà salito dalla figlia a quest'ora. E il cassarone mi ha giubilato i lupi, da Conforama, quelli antigraffio, che hanno lo sfondo grigio e sono belli. Allora come ti ribui giù, non fa bisogno di friare nulla e non si attacca a nulla. Grazie, io con queste ci cucino le bistecche, ci cucino altra cosa pure. Ma ci ho comprato una che non mi piazia. Io credo che facciamo mettere chissà, invece non da dava, è meglio chissà. Ah, ma è tipo la piastra di ghisa, io ce l'ho la piastra di ghisa. E anche una in garage con due manecci. E quella che è una piastra di ghisa e la appoggio sul fornello e cucina, così. È tipo piastra in ghisa, è tipo piastra in ghisa, catta, è un cosa, è un peccato che ce la rampavo. Allora io... l'ho buccata, adorna, gli ho fatto la filettatura e gli ho messo la trafilata sì. Già andava. Anche io ce l'ho così in ghisa. Neanche una in garage. Con due manecci. Certo. Per me era troppo comoda era. Piaggio roba di quasi. Si può di 20 anni. Ehi, quello che c'è in garage è Roma Tecce, io vi lascio un bel anno, però avevo preso quest'altra che c'ho qua e quella ce l'ho in garage. Ehi, no, io ce l'ho la piastra del gas, non fa venire la casa sotto, che la stia, 80 di lunghezza e 46 di altezza, un rettangolare, c'erano tutti i canali per scorrere l'elulio, il crogiolo per l'acuglio e via dicendo. E quella che ho io è bella lo stesso, già funziona bene, e c'è la così vera cosa. Quella che c'ho in garage ce l'ho messa lì perché avevo preso questa, ma è buona anche quella che c'ho in garage. Non ce l'ho accesa in campagna perché c'è in campagna. E già così ne veggia, pure in Natale, l'uvoco la puoi appoggiare. E funziona bene. C'è il cavalletto, sotto c'è un bruciatore in ghis a gas e il tubo alla manopola per accendere e spegnere, minimo, massimo, su quanto. Cosa, mezz'ora è pronta a cucinare, è ruia. Ehi, quella che c'è la appoggio sulla cucina, accende il fornello, all'epoca arrostiveggia. Però non esce mai come farla al carbone, come cosa mi piace di più cucinata un'altra graviglia con la legna e il carbone, così è più gustosa. Quella che cosa piastra che io di ghisa, la fai sul carbone, la fai su quella piastra, non c'è nessuna differenza. Li fai i segni perché è ondulata, no? Cioè, li fai i segni della graticola nella carne. E ogni giro di piastra ci puoi mettere un chiletto buono di carne, c'è anche di più. E la mia è lo stesso, è la mazza sfigosa. Tore, avanti! Grazie, ma quando non le puoi cucinare, prima piano, con la grapiglia mi bongo. Una volta lo fa zia. Ma va, non ne posso più. Eh beh, se ci sale il fumo sopra, magari a ciappe se prendito che borbotteggiano, andava e no. No, io già lo faccio fuori sopra il tetto, al terrazzo. Già mi veni bene. No, dentro casa ho provato nella veranda con il balcone giusto a bici. Però non va bene lo stesso perché secondo me girava il tempo. Tu fumo venire qui a Trento, compresi. Agitava, buon gruva con i ghidai, non posso i ghidai, Natale, terrazzo. C'è stato io all'ultimo piano e cose che va via la cosa, allora si gravi a fatto, ma ci mette, non si può fare. Non dava a fare, mi tratto la piastra. Che va bene lo stesso, ma... Se no fai come ti fate di chi si piadranze della farmacia e noi. Si alzano i bracini in carriera e si appariceggiano. E fate le vecchia, si muore le buru karaoke, non l'hai mai visto. Vai che si burieggiano, non è cosa vedi cosa hanno sciaffura. Si crede lì, in campagna la bestia con tesoro. A pochi, da non stare in occhi, detto che io, dicevo che dei palazzini comunali, sono attaccato il karaoke, sono attaccato fino a mezzanotte e non ne vogliono infiniti. Ha pigliato la rufugia, una fucilata, ha peccato lo karaoke, ve l'ha fatta a pezzi. No, che si buoni, ogni bancata ne vede il fuoco. Di niente, ma niente, e certo ne pensavo stare due di tre manzane in barriera che la valla, quando ci sono quelle belle serate, adesso fra poco cominciano, da lotti si comincia a vedere un fucarone in barriera, il fuoco di Sant'Antonio, ogni a fuoco, e poi cominciano a ruggire 4-5 bracini, vani, di chi si gestisce, non le hai mai viste? Una volta hanno sganato in farmacia, giovissi. E mi hanno chiamato, la polizia hanno chiamato perché non si può fare una cosa del genere. Oh, io fatemi sempre, adesso come ti cominciano a rivedermi, tutto ricchio, se tu passi, rivedi, a Rufenna e Magnini, di tutto, carro, sagira, di tutto. Grazie, sono rientrato, eh. Alla faccia della mezz'ora, mica c'è Tore, Bacchisio, riprendi. Ciao Tore, se mi ascolti c'ho Bacchisio. Ehi, cosa ti accosto io? Con le orecchie mi ascolti. No. Andiamo a vedere. Ripreso Bacchi. Ehi, ciao Luca, ben ritornato. Non ho nulla da fare. E affitto il coso l'arrosto, non che non va, sennò che di fronte a casa fatemi la pecora bollita. Vedono da rimanere a Manzano, cucinendi, tutta la dica che vuole il leone, che va del dono e vola in carriera. Arrivano e si sono ritirati anche quattro di Manzano. Il circolo che viene dall'alza a te? Sì, io che si sono a me, grazie. Sì, fuori a mare, allora era giusta che la valla è stata tutti i suoi tempo, papà. Le Manzano chissà, cucinendi. Io ho giocato in campagna che erano i 2:30, 3:15 e ancora erano i cabbadei tandenti. Quando sono passato 3:15 erano ancora magnenti. Luca, deve essere la vecchia, torcia che la palla, curriata la bicola. E allora, quella coppa era? Sì, era la nonna della bicola, o la bisnonna. O era di chi sei tutto nel mio? Tore, cosa li pensi di tu? Io... Già mi raffazzinerassi a me, che hanno... Mi invitano, ti dico se... Se è moda o se è tutta. Io già non ne mangio. Non mi piace, uno non mi piace, due non ne bucio, ne manco mangia. Pucci, manco lo fiaco mi piace. fiacarito quasi, fustica. Manco di ridosso i sarroni che passano da via qui. In campagna è una bazia, ma non li mangiamo, ci curia. Dezi gabbi di ziota a dretto, li vedi poco niente, ma niente, la buca. E lì che mi sta andati a lontano. E non che puro patato se ne conto dentro, ziota, limoni, di tutto ogni buccio. Ciao, fare buccio che botta vincia. Non si sa. Avanti, ci otto. Sì, ci va, patate, carote, cipolla e sono mamma, no, è così, no, quello lì ci va, non va da altro. Ehi, la ziota più grossa è più manna e più buono e si dice. E le bonia normali, erano i maduri Roma stessi. Sì, la ziota è buona, mica sì, te lo dico, se è buona la ziota, non c'è stato tre capi, la campagna fosse in serata. Buona sì, chissà bianca mi, la fetta, la buona in un degame, con l'uso, la raga in marina, un bello, un poco. Quella meglio mi piace, me la faccio ogni tanto qua in casa, con quei fagioli borlotti, quelli grossi mi, buona rete, esci. Sì, col fagiolo bianco, quei fagioli bianchi grandi. Quelli lì. No, già mi piace quel tipo fatta l'insalata così, mi, un fagiolo, già è buona, stava subito un mese senza qua. Mi sa che domani mi organizzo il fagioli a Villaggio. La ziota, Villaggio, fresca, pigliata oggi, a Villaggio pure appiccata. Tre capi venti bianchi. No, io mangio buon nanna, lo mangio sia di buon nanna, c'è anche le fate a capimanno. È bianca, mezzo blu, no, è bianca bianca, è colorata. No, qui c'è bianca bianca, da due io l'ho pigliata a mia moglie, chiama. Riprendi lui. Sai cosa bianca bianca? Il capo della ziota, mezza brecca. Ah, capito. È buona fatta insalata quella, con i fagioli. Quella grazia è buona fatta insalata con i pomodori e citrioli. E vai che stiamo andando. Da vicino la ziota la Giuseppe mangiata, buco così mi ha mosso, tipo come se ti mangi la mela. Me la mangiavo. L'altro invece non lo posso così, me ne fa se ci luci. Puro dice l'aglio è il migliore della ziota che raffina il sangue, purifica il sangue l'aglio. Lo so, ma è troppo forte, l'usaore non lo digiro, mi viene quasi scilluccio, proprio cazzo mi, è più forte di me, riprendi tu. Ma invece io giocare in contrario, mi mangio l'aglio, la ziota te ne mangio anche pezzarito, però mi piace di più l'aglio. Allora devo giocare la mano con Piero, come avrà detto. Fisso ci fa dei ribanini con l'aglio. Pucci. Ma Rosanga, già come te li gira? Te lo purifica. Ma mi fa dei mali, mi ne scendo, mi sento proprio male. Mi cazzo l'anima, mi cazzo. Ci ho provato a assaggiarlo un pezzettino, mamma mia, non fa. Quando lo metto che faccio le fettine, aglio e prezzemolo e peperoncino, lo trito bene che sia piccolo piccolo per insaporire, però ci lagato, ci lampo tutto. E allora quando fai la pasta in bianco, non ce lo metti l'aglio, il peperoncino, l'aglio, il prezzemolo, non ve la buona questa roba? Sì, ma compro quello già preparato che praticamente non lagati, c'ha il sapore un po', il buco. Quello già pronto in scatoletta. L'unica è l'originale, grazie a... A corso della campagna è trinciato e magnato, visto che sta tanto tempo bene in scatoletta. Esce giusto dall'Africa. Ce lo faccio anche fresco così, però io ne ricalco uno con la buchetta, ne lo cavo. Il prezzemolo me lo mangio, l'aglio no, ne lo levo, capito? taglio, lo taglio a pezzettini piccolini piccolini, lo metto nella pasta asciutta, è buonissimo e fa anche bene e fa funzionare tutto. No, leglielo tu a Graziano. Certo, e viene buccia di aglio, avide. E poco te ne mangio io, mi. Ciò che non mi fa dire pasta all'olio. Aspetta, più aglio è meglio è. No, io no, ci ho provato però, mi intendo male i frutti, mi va a intendere male, e mi nesce di luce, ma tu frutti, come ti canto di intendere male che ne gassi l'anima, così mi fa. Lo ci affoga, mi dici, non ci scende. Aspetta, mio figliolo, sai cosa fa? Invece buonire l'aglio non ne buoni, però fate mangiare in bianco, con l'uso, crudo. Ha detto, faglielo mangiare un po' d'aglio, che gli fa bene, fa circolazione del sangue, gli fa pulito, lo purifica. Ed ha detto che no, e invece le guavere uffiamo sempre noi. Ce la faccio io così, la pasta aglio e olio, oh, e prezzemolo così. Però l'aglio ne lo levo, capito? Lo tolgo proprio. Se un pochino il sapore già lo agguanto, ma mangiami un proprio, manco male idea. Non funziona. E allora grazie di fare una cosa, prendere una bottiglia d'olio, tagliare il glicoso, l'aglio e buttarlo dentro, lasciarlo macerare e poi usi l'olio senza usare l'aglio. Già lo so, anche così si posso fare, già lo so, ma noi che mattini assai a me l'aglio, l'aglio tagliami la mano, tranquillo, però l'aglio mi fa quell'effetto lì, capito? E mi intendo male, mi da pure. No, meglio nulla. Se lo posso evitare lo evito, capito? O se faccio per esempio la pasta all'olio, me lo levo, quando lo vedo lo sposto con la forchetta, però non lo mangio. Vediamo Luca, ma le lumache con l'aglio prezzemolo, si mette l'aglio lo butta via. Ma l'aglio fa bene, dai, ma sei microbi. Ma baciami le voci però. Cata. E così forte arrivo, guarda, sto usando la supposta, mi. Quell'antenino piccolino, va bene, va benissimo. Ascolto anche in lontananza. Sì, perché è amplificato. Stai uscendo forte, stai uscendo. E l'altra è tutta brutta, cioè mi si è fatta brutta tutta storta, guarda, non è mica avuto due volte entrare alla radio. Si è piegata, non ce la fai più addrizzarla come era prima. E va bene questa, a voglia. Che antenna è lungo lì? Bacchi, non lo so, di quelle piccoline piccoline, tipo supposta, dai. Ah, quelle, io ho capito, sono 6-7 cm lunghe, sono grosse. Più o meno, sì, dai. E sono quelle. Sono caricate, funzionano bene. Tore, mi sembra che ce l'abbia una di quelle. Tore, non ce l'hai tu, quella lì? Sì, a una parte l'avevo messa. E poi la dovrà punire. Graziano. Mangiandoti della corsa e delle lumache stai mangiando. No, posso raccoglierle, ma mangiare non ne mangio. Un'altra. Dica tu la Giovanni ha domani il burro grebato. Non le posso più mangiare, magari. Però non mi fido. Allora, Monzetta, grazia. Neanche Monzetta. Ho fatto una prova anche con la Monzetta, una, già mi intendia i formicini di Barri, per carità, non fa, mi ha intossicato e dunque adesso niente, ma con la giochita, non ho provato ad assaggiarne due, che non so nulla, e mi sentivo già il frizzantino in Barri. E poi me la accorgo subito, a chi mi fieggia burro con le labbra, con frizzo. Mi ha intossicato, non funziona. Allora, no, ti fa male. Stanno già vendendo lumachine, a 6 euro al chilo. Ma lumachine, si gioca a minuto, ma a minuto davvero per ommi. La gente andando io a farla, bacchi. e che abbiamo già visto il posto, ma belle, belle, ma belle veramente, grandi. Quindi almeno la prima che facciamo almeno a 12. Ma adesso quella che hai visto tu non serve, perché ha piovuto e mette il verme. La giochita si fa quando si è tranquillo che non fa eva. Allora sì, se poi la fai dove c'è il fieno secco, è ancora più buona. Grazie, lo so, no, a parte il verme non ne ha adesso, perché sta uscendo, capito? Allora, un po' di poco di gatto per fa bocca, cioè fa la adulta, mi. Comunque le abbiamo viste un paio, belle, ma belle e belle. Adesso speriamo che non ce ne fanno il posto, perché ci organizziamo, andiamo presto presto, tipo le 5, poi inizia il picciati verso le 5 e mezzo, e niente, poi fai dalle 5 e mezza, fai dalle 6 alle 8, massimo 8 e mezza, stiamo rientrando, che poi inizia a fare caldo. Ma adesso quelle che hai visto tu, con quest'acqua che ha fatto, lo mette il verme, e commenti che lo buoni, e lo segui. Vabbè, non lo so. Adesso non servo, hanno il sapore dell'erba ancora, non sono fatte. Della chescia sono buone, vedi? Se trovi il posto dove c'è la chescia, oppure delle cose il mirto, lì è vanno bene da coglierla. Anche lì dove c'è la chescia, dove c'è il mirto. E chi dove c'è il mirto sono? Normalmente sono quelle rigate e più tocca la buccia. E chi ci sono i più buoni? Se ne trovano lì. Invece nella zona di Porto Torre sono vetrine. Come vai a bucarla e chi c'è in bocca? Ma la zona di Porto Torre, se io non ho visto Bareccia, niente, chi vi? Verso chi le zone di Fennili. Una di un amico mio si racconti chi vi vicino pure dalla rete ne l'ha attaccati per una rete recinzione e ci sentessi tutta male, tutta la famiglia era un brutto soccorso a che rimanga di questa giochista, quella inquinata lì. È chiaro, quella è inquinata, se la fai lì sotto le torri questa è inquinata, cosa rimanga è velenosa. No, bisogna andare lontano da Porto Torre, a palle. Nella Nurla ce ne sono belle le lumache. Allora, grazie. Siamo andati l'anno scorso in questo... Ferma, Mari. In questo terreno, ecco. Siamo andati dentro. Ah, belle, belle. Beh, c'era un amico che si è avvicinato al traliccio. Spostati da lì perché lì è pericoloso. Vabbè, stiamo camminando. No, no, sai quelle... quella l'erba, dai, per me è erba, quella che si chiude diventa una pallina lì, ogni gioca minuta, ma dopo fai dopo 20 minuti, non arrivi chi da botte. Un uomo grande di età anche. Siamo andato via, perché avevano piantato la, come si chiama, l'orzo. Allora era di cazzo i piantini magari. E la mica germogliette, Ma belle, mi ha fatto la rinchini, mio mamma mi ha fatto dei zicchini a capo, ma belle, una più bella dell'altra, proprio uno, ma che belle, belle, belle. Poi ho detto, dai, se non ne facciamo danno, ma che ti vedi? Non si non vivuria proprio, io ti fai riposto, tu la vuoto di rossi, noi in quattro, mi, io, eravamo io, Franco, Cristian e Mimmo, in quattro, sì. Beh, se siamo andati. Ah no, non sa se mi ha mandato un russo. Non conviene mai fidarsi. E da poi è poco che va prepotenza. Se non darei nel russo io ti ne andavo. È impresa bulla a chi. Se succede qualche cosa, la farrazione da poi la polizia finì picchiare sempre a te, che il padrone è sempre io, capito? Vabbè, ma ci sono, guarda, non potete entrare, a Bozzi, un canibaria, a Bozzi, fate va dire tranquillamente, guarda, non potete stare qua perché è piantato, a Bozzi ne avevamo andati, no, veni con un ruccio, ma ne vi siamo andati, e lei è andata bene, dai, perché era da, vabbè, io, a me non me ne ha fatto nulla, a me non mi ha detto nulla, ho fatto finta di niente e piano piano mi sono incamminato verso la strada. Così, Adesso chiudo io. Ciao Marchisio, buon proseguimento. Ciao Luca, buon proseguimento in serata anche a te. Ciao Tore, ciao, buon proseguimento anche a te, buona cena a tutti e anche agli ascoltoni. Ciao a tutti, vai tu. Ok, ciao, grazie, stammi bene. Andave, riprendi Bacchi. Ehi, salutiamo Graziano. Ciao Graziano, buona serata. Sotto la signora, domani se lo coincide. E anche io ne approfitto del micro per salutarvi. Io passo in QRT, causa medicina, è arrivata l'ora. Ciao Tore, buona serata. Sotto la signora e company. Ciao Luca, buona serata anche per te. Sotto la signora, al domani se tutto coincide. Bacchi si passa in QRT. Vai, vai, Luca. Ciao Bacchi, dai, ciao Tore. E ciao Graziano, buona cena, anche noi abbiamo dobbiamo andare a mangiare, dai, si è finito il programma. A domani, ciao ciao. Ok, ciao Luca, ciao Bacchisio, ci sentiamo domani, ok, ciao.